Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno da Nicoletta e benvenuti, sono le 11:13. Qualcosa è cambiato in questi giorni, le scuole sono ricominciate. Chi abita in città se ne accorge subito dal traffico. A proposito, voi li accompagnate a piedi, a bici, in macchina, coi mezzi o vanno da soli? 800 24 00 24. Pensate a quante cose cambierebbero se provassimo a non usare la macchina, almeno qualche volta. Io cerco testimonial, come testimonial dei genitori che raccontino in diretta i vantaggi, anche fatiche, di questa scelta. Intanto vi aspetto. Io ho fatto l'elementare 40 anni fa e già per quello mi viene il magone. E le ho fatte a Lugo di Romagna, un paesino piccolo così, e le ho finite alla birra a Bologna quando sono emigrato. E lì, devo dire la verità, era diverso. Era impensabile per noi anche soltanto fare da soli ai bambini 10 metri. Le mamme da noi arrivavano lemme vicino al cancello, poi ti mollavano a tradimento in terra, e ti entravi per inerzia e capivi che ti eri sifonato da solo, ma è un altro paio di maniche. E poi il rito di venirci a prendere a mezzogiorno e mezza, tutti fuori, proprio tutti fuori dal cancello della scuola, tutti i genitori con le reti, perché sembrava più la pesca del tonno che andare a prendere i bambini, perché eravamo proprio, noi eravamo dei capitoni coi cingoli, proprio andavamo da tutte le parti. E c'era quello con la voce più intonata che diceva: qualunque cosa esca da quel cancello, stiamo uniti, solo così riusciremo a portarne a casa almeno uno, perché è il minimo sindacale, almeno uno portarne a casa. Ma oggi parleremo anche di un altro genere di accompagnamento. Ogni anno scolastico è un cammino. Lungo la strada, giorno dopo giorno, i nostri figli affrontano e si misurano con opportunità, soddisfazioni, stimoli, successi, insuccessi, amici, persone, e noi siamo fianco a loro, cercando sempre di essere all'altezza della situazione. Allora, la puntata di oggi vuole essere un'occasione per invitare i genitori all'ascolto a raccontare qualcosa di questo viaggio. Lavoriamo oggi insieme ad Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Alberto, bentornato. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, faremo un po' di strada oggi insieme. Eh sì, anche perché un buon inizio è in qualche modo già essere a metà del viaggio, ed effettivamente i bambini che cominciano la scuola, o i ragazzi, i preadolescenti, gli adolescenti che entrano alle medie inferiori o superiori, adesso si chiamano scuole secondarie di primo e di secondo grado, se cominciano bene sono già a metà dell'opera. Allora, i genitori si confrontano, parlano, noi abbiamo fatto un giro nella rete, abbiamo raccolto le domande che si fanno mamme e papà. Si troverà bene con le maestre? Sarà abbastanza approfondito lo studio dell'inglese o mi toccherà comunque mandarlo a lezione al pomeriggio? Come sarà la mensa scolastica? Posso fidarmi? Si troverà bene con i compagni di classe? L'amico del cuore è andato in un'altra scuola? Ha superato i debiti, ma quanta fatica! Ce la farà ad affrontare l'anno? Ripetizioni, meglio partire da subito o aspettare? E qui in studio con me sono tornate le nostre mamme blogger, Yolanda, ciao. Ciao a tutti, ciao. E Veronica. Buongiorno a tutti. Le potete trovare in rete su blogmamma.it e manager di me stessa. A voi com'è andata, Yolanda? Ah, direi abbastanza bene. Hanno cominciato, quest'anno io ne ho qualcuno alle elementari e una alle medie, quindi insomma cominciamo a essere ben distribuiti, diciamo, e per ora tutto bene, ecco, siamo agli inizi. L'unica cosa che mi ha spaventato è che al terzo giorno di scuola è già arrivato il messaggio: controllate la testa dei bambini, occhio ai pidocchi. Occhio ai pidocchi. Beh, quello si ripresentano. Grazie dell'informazione di servizio, adesso ricomincio anche io con lo shampoo propedeutico. Alberto, tu che oltre a essere genitore, psicoterapeuta, sei anche papà, sei anche medico, dove si controllano i pidocchi? Ci sono delle zone particolarmente importanti da controllare? Vai Alberto. Ma la cosa principale è in realtà dotarsi di un pettinino a denti molto molto fini e far passare bene tutto il cuoio capelluto, facendo attenzione che questa operazione voi la facciate tenendo un panno bianco, un asciugamano bianco, insomma, sotto la testa del bambino che viene pettinato, in modo particolare se avete bambini che hanno i capelli lunghi. Questo è il modo migliore per rilevare se il problema c'è o non c'è nella testa del vostro bambino. Questo nel caso di nuove infezioni manifestazioni, perché l'altro aspetto è che se la testa invece, oltre ad avere i pidocchi che ci camminano sopra, è anche dotata delle lendini, cioè delle piccole uova di questi parassiti, allora il problema è comunque non un problema recentissimo, cioè il bambino ha ricevuto i pidocchi da un altro compagno, ma probabilmente è un problema più di lunga durata e dovete assolutamente fare un trattamento. Abbiamo Mattia che ci chiama dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Mattia, benvenuto. Buongiorno, grazie. Io sono sostenitore assoluto dell'accompagnamento dei bambini a scuola a piedi. Ne giova il rapporto, ne giova la giornata, anche se piove è un momento per giocare con gli stivali di gomma e le mantelle. Se nevica, non ci sono mai problemi. Forse noi siamo fortunati che abbiamo la scuola relativamente vicina. Però assolutamente è una cosa bellissima poter non dover sopportare lo stress della macchina e già iniziare giocando la giornata, diciamo. Mattia, oggi accompagniamo i nostri figli a scuola alla ripresa dell'anno scolastico. Quali sono le sfide che sente più faticose? Le sfide più faticose quelle di far sempre più accettare la scuola ai figli e cercare di fargliela vedere anche dal punto di vista dell'apprendimento come comunque una cosa, diciamo, trovare il modo per renderla leggera anche se devono apprendere, ecco. Io sono per questa teoria per cui l'affaticamento psicologico non giova a nessuno, secondo me, quindi partendo appunto dalla teoria che dicevo prima, già partiamo subito alleggerendo la giornata e il rapporto, arrivando a scuola sereni con una bella passeggiata e poi affrontando che ossigena scuola, che ossigena il cervello. Sicuramente sì, grazie. A Mattia. Allora io adesso vi faccio ascoltare una serie di parole, mettetele in ordine di importanza. All'inizio dell'anno scolastico che cosa vedete? La scuola è... Per voi la ripresa della scuola è compiti e interrogazioni, organizzazione della giornata, amicizie, pasti consumati fuori casa o maestri e professori? Veronica, dovendo mettere in ordine in un elenco queste parole che allora, toccano senza un po' le per varie... i figli, le amicizie, invece per me che sono mamma, sicuramente maestro e professore inteso come la relazione con i contenuti che devono assolutamente trasmettere. Nella mia scaletta è la numero uno per quanto mi riguarda, seguita poi da amicizie, cioè vita di relazione e poi compiti, interrogazioni, eccetera. Io sono una persona invece molto più pratica. E guardo quali sono i problemi delle mamme e quindi sicuramente il problema fondamentale sono i compiti e le interrogazioni. Sarà perché io ne ho tre e quindi devo controllare che tutti l'abbiano fatti, che siano pronti per le interrogazioni. Sicuramente il problema più grosso è quello. E poi chiaramente ovviamente bisogna pensare a professori e maestri, come si trovano, cosa fanno, come si comportano i bambini eccetera. E poi l'organizzazione della giornata, che però poi entra in un tran tran e diciamo che all'inizio magari è un po' complicato, poi però va via più liscio insomma durante l'anno. Intanto aspetto anche le vostre domande, le vostre richieste, i vostri commenti. I ragazzi sono tornati da scuola, sicuramente qualche cosa hanno detto, le loro prime impressioni, voi come avete risposto. 800 24 00 24 perché passare dal tempo di vacanza al tempo di scuola è impegnativo. Noi parliamo sempre di stress da rientro, anche i ragazzi fanno fatica, molti insegnanti ad esempio iniziano subito a spiegare, non c'è tempo per un adattamento graduale e la testa sembra ancora un po' in vacanza, non è ancora collegata. In linea con noi abbiamo Matteo De Benedittis, il professore RAP, che è ancora in vacanza perché in Emilia Romagna, dove insegna, le scuole iniziano il 19. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ricominciare è faticoso, anche per gli insegnanti, ma soprattutto per i ragazzi. Lei ha dei consigli da passarci, dato che è dall'altra parte? Ma dunque, intanto io sono per un approccio, diciamo così, abbastanza deciso, a seconda del tipo di studenti che ho davanti. Quindi se ho davanti degli studenti che conosco bene, che mi conoscono bene e che sanno che insomma tendo a farli lavorare, non dico che inizio subito a spiegare, però quasi subito, anche perché quest'anno avrò una quinta, quindi perdere tempo in quinta superiore non è salutare per i ragazzi, perché arriveranno molto più rilassati all'esame se si riesce a distribuire bene il materiale nel corso dell'anno a partire proprio dall'inizio. Nell'altra scuola in cui invece sarò per la prima volta e sarà anche un professionale e avrò delle prime, ecco qua l'approccio invece sarà più graduale, però teso anche a far capire bene insomma quali sono i ruoli, come ci si comporta a scuola. Io credo che l'educazione che un insegnante trasmette ai ragazzi passi prima di tutto attraverso l'ascolto, quindi ecco, in questa seconda classe che non conosco, al contrario della prima, proverò almeno a dedicare un po' di tempo ad ascoltare i ragazzi, a vedere quali sono i loro interessi, che tipo di classe è, e per applicare il più rapidamente possibile le strategie migliori per consentire un buon insegnamento. È questione di ritmo, professore. Professore, lei usa il rap. Allora sì, questa canzone dello Zecchino d'Oro è stata effettivamente profetica, perché forse è stato l'inconscio apripista di un filone che si è sviluppato negli ultimi anni, diciamo, di professori 2.0. È recentemente uscito anche un volume, School Rocks, con la prefazione di un rapper, appunto Frankie Energy, e altri, c'è tutta un'altra serie di professori che appunto si chiede come rendere più accattivante le lezioni per gli studenti, proprio nell'ottica di quello che dicevo prima, insomma a partire dall'ascolto dei loro gusti. Per me appunto il rap è stato, con una determinata classe, il veicolo col quale ci siamo riusciti a intendere, a stimare e a creare le condizioni favorevoli per un apprendimento che andasse anche al di là chiaramente del rap, perché non ho solo insegnato a costruire delle rime o dei testi di canzone, ma questo serviva ad aprire il panorama sulla poesia, sulla retorica, sulla letteratura in realtà. Insomma, usare la musica aiuta anche i nostri ragazzi ad apprendere meglio, il prof ci ha preso, come si dice. Ci sono ricerche infatti che dimostrano come l'attività, l'ascolto di musica e anche imparare a suonare uno strumento rende i nostri figli più brillanti. La conferma arriva dalla ricerca e in linea con noi abbiamo Salvatore Patriarca. Ciao Salvatore. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Responsabile editoriale di Salute 24, un sito che vi consiglio, un sito amico, un bellissimo portale. Salvatore, ci sono, e voi riportate numerose ricerche. Sì, c'è proprio questa che indica, una ricerca fatta dall'Ohio State University, e indica come imparare grazie alla musica e agli strumenti migliora da un lato le capacità di lettura e quindi per tutte quante le competenze in ambito umanistico, diciamo così, ma allo stesso tempo migliora una disposizione alla comprensione della matematica e quindi si copre anche l'ambito scientifico. Bisognerebbe mettere molta più musica a scuola a questo punto. Questo è sicuro. In tempi nostri non ce n'era, ma noi suonavamo a casa, con amici. Io suonavo la chitarra, orecchio, non so, però andava abbastanza bene a scuola, non so se è merito della chitarra. Comunque la musica è associata positivamente con i risultati scolastici. Salvatore, tu hai bambini che vanno a scuola? Non ho bambini che vanno a scuola, però posso dire questa cosa che è interessante, perché tutti quanti di solito pensano che la musica sia collegata essenzialmente ai risultati scolastici quando si è piccoli, ma invece gli studi dimostrano che i veri effetti migliori, gli effetti più positivi, si hanno quando si diventa adulti, cioè nelle scuole superiori e poi andando avanti verso il college nel caso degli Stati Uniti e l'università nel caso nostro. Quindi è un effetto di lunga durata quello della formazione musicale in età giovanile. E poi, Salvatore, possiamo dire non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi, quello sicuramente. Infatti anch'io ho un vecchio sogno che non so mai se riuscirò a realizzare, di imparare a suonare almeno per qualche nota il violoncello, chissà che prima o poi non mi ci metta davvero. Grazie Salvatore Patriarca, grazie al nostro professore Matteo De Benedittis. Mi raccomando, professore, teniamoci in contatto. Bene, molto volentieri, certo. Grazie, andiamo a Emanuele che ci chiama da Ferrara. Buongiorno Emanuele. Buongiorno, volevo fare questa domanda. Io sono un padre separato da 10 anni, mio figlio adesso ne ha 13 e l'abbiamo gestito tra me e la mia ex moglie, diciamo più con la moglie che con me. Sì. E abbiamo due, diciamo, filosofie diverse. Lei che sta molto addosso a mio figlio con il controllo assiduo, fare i compiti, controllare, verificare, e per evitare che vada a scuola con i compiti, diciamo, da fare. Mentre io ho una formazione diversa di autoresponsabilizzazione e quindi, dicevo, volevo portare mio figlio a responsabilizzarsi da solo. Ora volevo capire quale, diciamo, era la strada migliore per poter mettere in condizione il figlio di non subire né traumi da una parte dall'altra. Allora Emanuele ci porta ad un problema che molti di voi mi stanno anche scrivendo via SMS. Essere e benessere. Per voi la ripresa della scuola è compiti e interrogazioni, organizzazione della giornata, amicizie, pasti consumati fuori casa o maestri e professori? E siamo tornati insieme, molti mi stanno scrivendo, per me la scuola sono essenzialmente i compiti, e il nostro ascoltatore ci proponeva, Alberto, la sua situazione, cioè la mamma, lui è separato, la mamma sta un po' con il ragazzo col fiato un po' sul collo, controlla i compiti, lui invece ha un altro tipo di approccio, vuole che il ragazzo si responsabilizzi. Dove sta come sempre la verità sta nel mezzo. Alberto, tu che cosa suggerisci? Intanto chiedo aiuto anche ai nostri ascoltatori, perché ci sono proprio due correnti di pensiero. Ma diciamo che quello che raccontava l'ascoltatore non è un problema solo delle coppie separate, spesso in una coppia genitoriale, anche non separata, c'è un genitore che è molto più in qualche modo controllante, desideroso di stare a fianco al figlio, se non a volte addirittura davanti. E un altro invece che vuole puntare sulla capacità del bambino di autonomizzarsi e di responsabilizzarsi. Diciamo tra l'altro che l'ascoltatore, parlando di un figlio di 13 anni, fa molto bene a investire sulla responsabilità e sulla capacità di auto-organizzarsi del figlio, cioè a quest'età non solo è un'esigenza proprio associata al momento di sviluppo del ragazzo, devono proprio imparare a fare da soli, ma è proprio un modo anche per prepararlo poi alla scuola superiore. A 13 anni si fanno un po' le prove di volo per una scuola che verrà, che sarà molto più impegnativa e rispetto alla quale i genitori non potranno più essere col fiato sul collo su un figlio, nei confronti del figlio, perché il figlio deve imparare a gestirsi. Potremmo dare una sorta di mappa, cioè nessun bambino, nessun ragazzo nasce con la capacità automatica di autogestirsi e di auto-organizzarsi, per cui quello che viene chiesto a un genitore è la capacità di monitorare la situazione e di prevedere qual è l'autonomia conquistabile dal figlio. In prima e seconda elementare la sfida è soprattutto aiutarli a gestirsi e organizzarsi negli spazi e nei materiali, preparare la cartella, lo zaino e in qualche modo darsi un tempo realistico e concreto per fare i compiti. Dalla terza alla quinta i bambini devono imparare a studiare, cioè hanno le lezioni e non c'è più solo il compito da fare sul quaderno, bisogna imparare a leggere, ripetere, memorizzare e poi elaborare informazioni, e su questo di nuovo in fase iniziale l'adulto può essere un aiuto significativo, ma poi deve proprio far sì che il figlio sia capace di fare da solo per andare alle medie. Insomma, una spalla, ecco. E alle medie la grossa sfida è che ci sono tantissime materie, compiti e lezioni molto differenti ogni giorno, e quindi le due sfide della scuola elementare, imparare a organizzarsi e gestirsi e poi imparare a entrare in apprendimenti sempre più complessi, si uniscono, e di nuovo in prima media è importante sostenere, monitorare un po' la situazione del figlio, ma per poi lasciarlo andare da solo. Voglio sentire la mia mamma, è blogger. Veronica. Ma io sono completamente d'accordo, fermo restando che è importante chiedere agli insegnanti, anche se hanno suggerimenti, soprattutto nei primi anni scolastici, per aiutare i genitori, perché immedesimandomi, io devo dire, ce lo stavano dicendo prima con Yolanda fuori onda, a me, io non ricordo che qualcuno mi abbia insegnato a fare i compiti né che mia madre mi stesse sul collo per farli. Eppure, ad esempio, eppure Marco, ho imparato. Marco mi scrive: ho 34 anni, i miei genitori mi hanno sempre solo detto studia e stai promosso, altrimenti se sei bocciato vai a fare il magut, e mi mette tra parentesi il garzone del muratore. Mai stato bocciato e non mi hanno mai controllato. Ora so che cosa sono le responsabilità che mi avevano dato. Anche tu, Yolanda? Allora, devo dire che sono assolutamente d'accordo con Alberto. I passaggi sono proprio quelli, cioè quando iniziano ai primi anni delle elementari magari devi stargli dietro un po' di più, ma comunque star dietro un po' di più non vuol dire che tu sei seduta da lato e stai dietro a seguire. È proprio solo un dirgli dai forza, fallo, poi se ti chiede aiuto, per carità, però proprio imparare pian piano a organizzarsi e poi arrivare a 13 anni a essere responsabile e saper fare da solo, assolutamente. E poi tu mi raccontavi della competizione che nasce tra i genitori. Secondo me questo un problema fatto un po' nuovo rispetto al passato, no? Assolutamente, secondo me c'è proprio questo problema che le mamme e il papà, o insomma la famiglia, sta così addosso ai bambini perché hanno delle aspettative anche rispetto agli altri compagni che devono essere sempre di più. Ma cosa ha preso il tuo compagno, cosa hai fatto? Questa competitività secondo me è assolutamente da evitare, insomma, sia perché si stressa il proprio bambino, sia perché appunto si crea una pressione troppo forte. Guido ci chiama da Roma, buongiorno Guido. Buongiorno a voi. Buongiorno. Dunque, io non posso chiaramente dilungarmi molto perché essendo soltanto un ascoltatore oggi, essendo uno psicosociologo, però vi posso dare alcuni suggerimenti. Mi piace, grazie. Uno dei problemi che ritengo principali è il problema che la famiglia in generale ha dei grossi problemi in questo momento, non solo in Italia, ma in generale questo riguarda un po' tutto quanto il mondo, diciamo, occidentale, quello un pochino più, diciamo, industrializzato, avanzato nella civiltà. Però con un grosso degrado che c'è stato negli ultimi 3-4 generazioni, nel passaggio tra genitore e figlio, i figli poi diventano a loro volta genitori, e questa perdita nel tempo è stata proprio sul focalizzare qual è il ruolo reale del genitore. E temo che uno dei problemi lo si veda poi anche negli studi, piuttosto che in generale nel rapporto con i figli, cioè questo volere essere molto spesso gli amici piuttosto dei figli piuttosto che i genitori, con la G maiuscola, che purtroppo fa perdere, diciamo, quello che è un vero ruolo del genitore, cioè quello di essere una guida, ovvero sia di poter dare anche quel un giusto equilibrio che voi stavate in qualche modo già commentando tra l'essere pronto a dare un aiuto ed essere anche di supporto, però contemporaneamente anche rendere il più possibile autonomo nei tempi giusti, nei momenti giusti, quello che effettivamente è una persona che si sta formando. Ora, questa formazione chiaramente può essere influenzata moltissimo e particolarmente dal genitore, così come anche dalla scuola, ed è chiaro che in quel processo che poi arriverà ad avere quel trauma del passaggio poi ad esempio all'università, che è ancora più traumatico di quanto non si pensi rispetto al passaggio tra le medie, certo, e le superiori, perché lì c'è la totale autonomia di avere a quel punto anche la capacità di gestire te stesso e non essere più guidato da un insegnante. Quindi a questo punto il problema diventa che se questo processo non è avvenuto in maniera costante nel e graduale, poi diventa difficile, compreso dei genitori ovviamente, e particolarmente dei genitori, che invece spesso si mettono come ostacolo addirittura all'insegnante nel dovere cercare di dare quella guida necessaria e quelle istruzioni necessarie e anche diciamo rimettere nei binari il ragazzo, perché la ragazza e il ragazzo sono spesso disorientati proprio perché nessuno gli dà delle regole, e Guido, c'è un problema di fondo, sì, che è purtroppo dato dal fatto che invece si è pensato con un certo buonismo eccessivo che la regola fosse un'imposizione, ma non è così, è un aiuto sostanziale a rimettere in ordine la vita. E chiaramente una persona che si sta formando, se non ha quelle regole di riferimento, rischia di essere persa. Insomma, cari genitori, dobbiamo imparare a stare al fianco, non come diceva Alberto tante volte, no? Ci si mette davanti ai figli per fare scudo a loro. Alberto, qua c'è Beppe da Prato che ci chiede un aiuto. Mio nipote è il secondo giorno di scuola, prima elementare, e piange come una vite tagliata. Stamattina si è attaccata alle gambe della madre. Qualche consiglio? Questa è un po' l'ansia da separazione che i bambini sperimentano nel momento in cui entrano a scuola. Bisognerebbe capire intanto che cosa è successo nell'esperienza della scuola materna, e il secondo aspetto è che soprattutto i bambini un po' più timidi, un po' più introversi, nell'entrare alla scuola elementare cambiano tutto, cambiano i riferimenti degli adulti, cambiano i riferimenti tra i compagni, necessitano proprio di un tempo di adattamento che è probabilmente un po' più lungo e un po' più faticoso. Vanno molto molto rassicurati, e una cosa che potrebbe fare la mamma è ogni giorno mettere un pezzettino di mamma dentro alla cartella del suo bambino, un cioccolatino, un fazzolettino, una cosa, proprio una cosa che faccia capire che la mamma ti aspetta fuori da scuola, tutti però dentro, e poi ci ritroviamo noi, e gli dia allo stesso tempo. Noi stiamo andando a sentire le informazioni sul traffico, vi devo ricordare anche il nostro Daily Lab, e continuiamo a cercare testimonial di genitori che vogliono chiamare il nostro numero verde per raccontarci perché potrebbe essere una buona scelta decidere di accompagnare a piedi i loro bambini a scuola, perché magari anche nel cammino si fanno due chiacchiere, si rincuorano i ragazzi, si incontrano nuovi amici. Aspettiamo, proviamo a creare un po' uno slogan, magari convinciamo qualcuno. Essere e benessere. Stiamo accompagnando i nostri figli a scuola, stiamo facendo due generi di percorso, il tratto che tra casa nostra e la scuola. Come lo facciamo? A piedi, in macchina? I nostri figli sono pronti per andare a scuola da soli? E anche quell'accompagnamento, che significa stare a fianco dei nostri figli che affrontano questo nuovo anno scolastico. Alberto. Sì, sono due aspetti che guardano da una parte al corpo, alla salute fisica, e dall'altra invece a far sì che la parte, diciamo così, più cognitiva, più mentale, più intellettuale, ma anche la parte un po' più sociale e relazionale vengano ben integrate nella loro esperienza scolastica. E non dobbiamo dimenticare che noi siamo corpo, mente e cuore, questo ce lo portiamo anche al banco di scuola, e come un po' citavi prima, no? con l'apprendimento musicale, che facilita poi tutta l'esperienza scolastica. Lì dentro c'è un insegnamento che la scuola negli ultimi 20 anni ha fatto proprio, che è legato a un modello di mente che si chiama le intelligenze multiple, e che hanno un po' scardinato l'idea di una scuola tutta centrata solo sull'intelligenza accademica, cioè leggere, scrivere, far di conto, e che l'hanno aperta molto anche all'esperienza invece di apprendimento musicale, artistico, e grande attenzione al benessere del corpo, perché se metti insieme tutti questi pezzi probabilmente ciò che ne viene fuori è uno studente migliore, quindi anche un adulto più realizzato. Abbiamo in linea con noi Andrea, 800 24 00 24. Proviamo a creare un po' di slogan che ci possono aiutare a riprendere il passo per la ripresa di questo anno scolastico. Andrea, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre. Bravo Andrea, lei sì che fa bene. Sì, senta, io sono favorevolissimo ad andare a piedi dove è possibile. Sì. Praticamente vivo in un piccolo paese in provincia di Milano, proprio sull'Adda, e quindi la trovo una cosa molto sana per i ragazzini. L'unico neo è che i primi giorni di scuola le cartelle pesano come delle casseforti, perché gli fanno portare tutti i libri e abbiamo fuori. Sulla nostra pagina di Essere Benessere il decalogo della schiena dei bambini che vanno a scuola, che è gentilmente fornito da Isico, dove ci sono dei consigli utili, Andrea, che può sicuramente andare a vederlo. Lei è capace di crearmi uno slogan, una frasetta, qualcosa che possa convincere molti genitori, quelli che possono, che hanno le scuole non tanto lontane da casa, ad andare a piedi? Ah, mi fa una bella domanda, non riesco, anche facendo il locale non me ne viene in mente. Se a scuola a piedi vai, più felice sarai, questo sì. Potrebbe dire Andrea. Meno inquinerai. Ecco, meno inquinerai. Veronica. Ma a me era venuto in mente, pensando alla mia esperienza personale dell'anno scorso, quando portavo entrambi i miei figli a scuola in macchina, che tempo di vita guadagnato è non usare la macchina. Pensate a questi bambini assonnati la mattina, li sbatti in macchina, metti la cintura, vai nel traffico, si stressano, sono già un po' arrabbiati perché devono guardare tutto da fuori il finestrino, arrivi lì, parcheggi, tu sei in ansia e gli trasmetti la tua ansia, soprattutto perché il genitore sa che non può lasciare lì la macchina, cioè trasmetti ansia tu genitore perché stai guidando. Però Clelia, che abita a Roma, dice: ma come si fa ad accompagnare i figli a piedi quando si deve stare in, essere in classe alle 8? Comunque in macchina io chiacchiero con mio figlio tutti i giorni. Allora, c'è una ricerca molto bella di cui voglio parlarvi, abbiamo ancora il tempo, abbiamo la comodità, il tempo per farlo, e che ci racconta quanto le aspettative che i genitori nutrono nei confronti dei figli li condizionino. In linea con noi abbiamo il professor Carlo Tommasetto. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Lavora all'Università di Bologna, ha svolto una ricerca molto interessante, ma io vorrei prima che lei ci spiegasse come noi siamo una sorta di specchio per i nostri figli, tante volte quello che noi ci aspettiamo da loro li condiziona. Assolutamente sì, anche nell'ambito della scuola chiaramente. Facciamo un esempio: all'inizio della scuola elementare, quando i bambini si trovano appunto per la prima volta immersi in questo ambiente di apprendimento formalizzato, perché in realtà i bambini apprendono molto meglio e molto più di noi fin da subito, ma si trovano in questo ambiente così formale di istruzione. Noi sappiamo dalla ricerca che i bambini si autovalutano, cioè cominciano a capire quanto sono bravi, meno bravi, più portati, meno portati per le diverse discipline che incontrano, soprattutto sulla base dei feedback, delle informazioni che ricevono dai genitori, anche perché fortunatamente nella nostra scuola gli insegnanti ormai, soprattutto nei primi tempi della scuola elementare, danno pochissima evidenza ai voti e alla valutazione formale, si sforzano di evitare questa forma di controllo e di sanzione, e quindi i bambini comunque in chi cercano appunto un rispecchiamento del loro andamento, delle loro capacità, le cercano e le trovano soprattutto nelle informazioni che danno mamma e papà. Professore, lei è stato e è anche autore di una ricerca in cui che ci manda un messaggio. Se noi genitori abbandoniamo i cliché, i nostri figli possono dare libero sfogo alle loro attitudini, sono più liberi. Ad esempio, noi siamo sempre stati vincolati a questo pregiudizio che i maschi sono più portati per la matematica e le femmine invece per le materie umanistiche. In realtà, professore, la vostra ricerca dimostra che? Beh, la nostra ricerca dimostra che, conferma che non è assolutamente così, non c'è nessun dato scientifico ad oggi che indichi una predisposizione genetica innata maggiore per i maschi verso la matematica rispetto alle femmine, e questo intanto ribadiamolo che non fa mai male. Sì. E l'altro risultato importante appunto è che le informazioni, il rispecchiamento che danno i genitori non dipende poi soltanto dalle prestazioni effettive dei loro bambini, cioè da quanto effettivamente i loro bambini riescano o non riescano nelle loro materie, nelle diverse materie, ma dipende, come giustamente diceva anche lei, dai cliché che si hanno, cioè dalla convinzione che generalmente un maschio in quanto maschio può essere più portato per l'ambito scientifico, matematico, e una femmina in quanto femminuccia è più portata per l'ambito espressivo, linguistico e via dicendo. Ecco, noi sappiamo che questi stereotipi che sono diffusi intorno a noi ingabbiano i nostri ragazzi, ingabbiano noi per primi e i nostri figli, ne sono assolutamente vittime, e i nostri figli magari a casa vostra c'è un piccolo Einstein e voi gli state tarpando le ali, quindi via i cliché. Professor Tommasetto, grazie ad Alberto Pellai e le nostre mamme blogger, appuntamento a domani, scaricateci mi raccomando e tornate domani. Essere e benessere.